Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Omicidio, suicidio a Trieste, spara alla moglie, poi si toglie la vita, i due anziani avrebbero premeditato il gesto. I dubbi sui tamponi a tappeto nell'inchiesta sulla pandemia, le chat del presidente dell'IS, l'udinese Brusaferro. La disparità di genere nei dati di due dossier, una donna su tre lavora part-time, solo una su quattro è un quadro. Sono 274 le start-up attive in regione, ma resta difficile il passaggio generazionale nelle aziende familiari. Verso il divieto di fumo all'aperto, anche quello elettronico, contraria alla multinazionale del tabacco Bati, insediata a Trieste. Calcio sulla panchina del Pordenone, Mirko Stefani, la storia nero-verde dell'ex capitano riparte domenica da Lecco. 7:19 minuti di martedì 7 marzo, buongiorno da Dario Ronzoni e Rita Micoli. Subito il meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto con qualche foschia, le temperature registrate alle 6, a Trieste 9 gradi, a Gorizia 6, a Udine 7 gradi, a Pordenone 7 e 5 decimi, a Tolmezzo 3 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e Tarvisio 1 grado, a Sappada meno 1, sul Piancavallo meno 2 gradi, sul Monte Zoncolan e sul Monte Lussari meno 3 gradi e 5 decimi, sulla costa Grado e Lignano 9 gradi. Le previsioni per oggi: cielo da nuvoloso a coperto con possibili piogge sparse, intermittenti in genere deboli, moderate sulle prealpi giulie e quota neve intorno a 800-1000 metri. Le precipitazioni saranno più probabili in serata, sulla costa possibili schiarite, mentre in pianura saranno possibili foschie, specie nelle ore notturne. Dal pomeriggio sera sulla costa in quota soffierà vento da sud o sud-ovest moderato. Cominciamo con l'omicidio-suicidio avvenuto ieri a Trieste, dove sono morti due coniugi ultraottantenni. Un gesto che, stando alle prime ricostruzioni, sembra essere stato premeditato dalla coppia. I coniugi Roberto Fabris e Yolanda Pierazzo sono stati ritrovati distesi uno accanto all'altro in un ultimo abbraccio. Entrambi avevano 84 anni e vivevano al sesto piano di un palazzo in via Ghirlandaio a Trieste, non lontano dal centro. Sul tavolo c'erano la pistola regolarmente detenuta e diversi tipi di farmaci, un omicidio-suicidio dunque, in cui, stando alle prime ricostruzioni, lui avrebbe sparato alla moglie alla tempia e poi si sarebbe suicidato assumendo gli psicofarmaci. Fuori dalla porta avevano lasciato un biglietto stampato dove si chiedeva scusa per il disturbo, si diceva di chiamare la polizia e si spiegava come recuperare le chiavi di casa. Si tratta di un gesto premeditato su cui indagano i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. Erano stati allertati alle 4 del pomeriggio dai vicini che avevano visto il cartello. Sulle pareti di casa non sono stati trovati altri fori di proiettile. La donna è morta con un unico sparo. Per capire quale sostanza si sia rivelata fatale per lui servirà l'autopsia. Resta da capire il movente alla base del gesto. I carabinieri verificheranno nelle prossime ore le condizioni di salute dei coniugi, che mantenevano una vita riservata. Lui, Roberto Fabris, in passato aveva lavorato per Fincantieri, era noto negli ambienti culturali della città per la sua attività di poeta, scriveva aforismi e aveva anche un sito. Meno informazioni si hanno su di lei. La coppia aveva un figlio che risiede a Venezia e che sarà sentito presto dagli inquirenti. Nell'inchiesta di Bergamo sulla gestione della pandemia, anche le chat di chi tra le istituzioni aveva il compito di arginare il virus. Da quei messaggi emerge la confusione, la tesi di chi indaga e l'impreparazione delle istituzioni. Sotto accusa per questo anche il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, l'udinese Silvio Brusaferro, all'inizio della pandemia, contrario ai tamponi a tappeto. Il tema è che tutti pensano che il test serva a qualcosa. Il 22 febbraio 2020, il giorno dopo, paziente 1, il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, descritto come il braccio operativo dell'allora ministro della Salute Speranza nel comitato tecnico scientifico, è scettico sull'uso dei tamponi a tappeto. Lo dimostra una chat con Francesco Curcio, direttore del Dipartimento di Medicina di Laboratorio di Udine, agli atti dell'inchiesta di Bergamo sul Covid in Val Seriana. In quel periodo le idee non sono chiare nemmeno sui tamponi. La valutazione valutazione era non procedere con l'uso massiccio dei test, anche se da Londra era stato comunicato che oltre 2/3 dei portatori sani provenienti dalla Cina sono rimasti non rilevati e hanno avuto il tempo di diffondere il virus. Si legge ancora nell'informativa della Guardia di Finanza alla Procura di Bergamo. Nello scambio di opinioni finito sotto la lente, Curcio, convenendo con Brusaferro, ipotizzava il rischio di iperafflusso di richieste di test e di restare presto senza materiali. Secondo la relazione degli investigatori, tra i motivi per cui già allora non si sia proceduto con tamponi a tappeto, trova spiegazione nel fatto che né il Ministero, né la task force istituita presso il Gabinetto, né il Comitato Tecnico Scientifico, né le regioni avevano previsto lo stoccaggio di tamponi e reagenti, ma si erano limitati a una semplice ricognizione dell'esistente. Nulla era stato fatto, stando alle carte d'indagine, nemmeno riguardo all'ampliamento del numero di laboratori in grado di diagnosticare il Covid, tant'è che nelle prime settimane dell'epidemia i tamponi processati nei laboratori regionali dovevano poi essere trasmessi a Roma per la conferma da parte del laboratorio dell'Istituto Superiore di Sanità, da lecciata di chi fra le istituzioni aveva il compito di arginare il virus e la tesi di chi indaga, emergono confusione e impreparazione. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. In regione il tasso di occupazione delle donne è di 14 punti percentuali più basso rispetto agli uomini, nonostante ci siano più laureate tra le prime che tra i secondi. Sono alcuni degli elementi contenuti nell'indagine dell'IRES, mentre dall'analisi di una ricerca della Camera di Commercio di Pordenone, Udine, emerge come il lavoro part-time sia prevalentemente femminile, più tempo per gli impegni familiari, con la conseguenza però di una minore indipendenza economica. La difficoltà di conciliare impegni familiari e carichi di lavoro resta un fattore di discriminazione a scapito delle donne. Le ricerche evidenziano, su un fronte, come i due ambiti restino ancora in conflitto l'uno con l'altro, e sul versante sociale e culturale, come questo conflitto scarichi il suo prezzo soprattutto sulle donne. Emerge da due indagini diffuse in contemporanea dall'IRES e dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. Le donne rappresentano il 51,2% della popolazione regionale, ma fanno notare i ricercatori dell'IRES, se il tasso di occupazione maschile è del 74,4%, quello femminile è del 62%, con uno scarto del 14,2%, una differenza che si amplia nella fascia d'età dai 35 ai 44 anni, l'età della maternità e della gestione familiare. I dati della Camera di Commercio confermano da un'altra angolatura. Su 100.000 lavoratori a tempo parziale, 76.000 sono donne. Il part-time consente di dedicare tempo a figli, famiglia e casa, con l'ulteriore conseguenza di un reddito più basso e di una minore indipendenza economica. Anche per questo le imprese femminili sono da noi il 22,5% del totale, ma la regione che in proporzione ne ha di più, il Molise, arriva appena al 27,3%. Meno lavoro ma più qualificazione. Se su 100 uomini occupati l'IRES conta 17,7 laureati, su 100 donne lavoratrici le laureate sono 31. Il famoso tetto di cristallo, infine, resta ben solido. Le dirigenti sono il 15%, una su 4 è un quadro. Antonio Cagliazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà proiettato oggi al Cinema Ariston alle 18 a Trieste il film di Maria Schrader, Anche io, She Said nel titolo originale. Il film racconta la storia dell'inchiesta che ha portato al MeToo, un omaggio alle donne che hanno trovato la forza di parlare delle molestie sessuali subite, ma anche al valore dell'informazione. La serata sarà introdotta dalla professoressa Patrizia Romito, docente di psicologia all'Università di Trieste e una delle maggiori esperte di violenza maschile contro le donne. Ai nostri microfoni spiega quali effetti abbia avuto il MeToo in Italia. Devo dire che in Italia è cambiato molto poco. Il MeToo ha avuto un effetto travolgente in moltissimi paesi, non solo negli Stati Uniti, anche in Francia, quindi un paese vicino e abbastanza simile all'Italia, e in Italia purtroppo è successo molto poco. Ci sono state alcune denunce da parte di giovani attrici che sono state archiviate, quindi da questo punto di vista anche nel mondo dello spettacolo non si è mosso molto. Negli ultimi mesi altre giovani attrici italiane hanno parlato delle molestie e dei ricatti che hanno subito, senza fare nomi, quindi anche in questo caso questa loro apertura è purtroppo caduta nel vuoto. e anche in altri ambienti professionali mi sembra che la questione delle molestie sia poco sentita. Non c'è una nuova sensibilità comunque che emerge? Sì, ha ragione, infatti mi correggo, io penso che sia molto sentita. Quando si fanno delle formazioni su questo tema in ambienti di lavoro, la maggior parte dei dipendenti e delle dipendenti chiede di partecipare, di seguire, vuole sapere, vuole essere informata. Però poi, come dire, di fatto le segnalazioni, le denunce sono pochissime, quindi vuol dire che le donne vittime di violenza, di molestie, hanno ancora molta paura a denunciare e purtroppo quando denunciano sono spesso molto sole. Quindi sì, la sensibilità è cambiata, ma non abbastanza per cambiare davvero l'esperienza delle donne che sono vittime di violenza. Gli appuntamenti in vista della Festa della Donna, oggi al Teatro Miela di Trieste alle 20:30, lo spettacolo La questione di Penelope a partire dall'Odissea, una riflessione sulla situazione contemporanea della disparità di genere. Alle 18:30 incontro a ingresso libero con le operatrici del centro antiviolenza GOAP e con gli attori della compagnia Artifragili per un approfondimento delle tematiche sulle donne vittime di violenza. La rassegna La scena delle donne, diretta da Bruna Braidotti, organizzata dalla Compagnia di Arti e Mestieri, propone alle 20:45 l'Auditorium Concordia di Pordenone L'anello forte di Laura Curino in scena con Lucia Vasini, scritto e diretto da Anna Di Francesca, dall'opera omonima di Nuto Revelli, in collaborazione con il Centro Antiviolenza Voce Donna Onlus Pordenone. A Ronchi dei Legionari per gli appuntamenti di Perché siamo donne in collaborazione con l'associazione Da Donna a Donna e con Hauser alle 18:30, incontro tra poesia e riflessione a cura di Carmelina Calivà, presidente dell'associazione Da Donna a Donna, Mafalda Ferletti, funzionario funzione pubblica della CGIL e Cristina Del Neri, medico del servizio sanitario. A Gorizia, incontro dall'educazione all'emancipazione, organizzato da Soroptimist Gorizia e dal Centro Ricerche Turismo e Cultura di Gorizia. L'incontro aperto alle scuole evidenzia il cammino intrapreso dalle donne, il ruolo della formazione e i passi ancora da compiere per arrivare all'uguaglianza nella differenza. Al ridotto del Teatro Verdi alle 9:30. E nella sala conferenze della Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste, Lady Sapiens, come le donne inventarono il mondo, alle 17 con Paolo Baron. E adesso alcuni appuntamenti politici. Il candidato della presidenza della regione Alessandro Maran per il Terzo Polo sarà a Trieste al City Bar Tergesteo alle 18 per la presentazione dei candidati della circoscrizione di Trieste. A Campo Formido alle 19:30 al centro polifunzionale in largo municipio iniziativa con il candidato presidente del centro-sinistra alla regione Massimo Morettuzzo. Si parlerà di politica inclusiva nell'incontro del Patto per l'Autonomia. Parteciperanno alla conferenza stampa le candidate della lista alle 17:30 nella sede di Adesso Trieste in piazza Puecher. Incontro organizzato dalla coalizione che sostiene Alberto Felice De Toni alle prossime consultazioni comunali di Udine. L'appuntamento, i pilastri della sostenibilità economica, in programma alle 17:30 in sala Madrassi di via Gemmoni a Udine. Prenderanno la parola esperti e amministratori oltre ai candidati allo stesso De Toni. A San Vito al Torre si dimettono 7 consiglieri municipali su 12 e il comune viene commissariato. A guidarlo in questa fase sarà Giovanni Petris, dirigente dell'amministrazione regionale in pensione. Decretata anche la sospensione immediata del consiglio comunale sino alla data dello scioglimento, che sarà disposto entro 90 giorni. Novità in vista per Porto Piccolo, è attesa oggi la decisione del giudice sul ricorso contro lo sfratto esecutivo intimato dal fondo Rilke, proprietario del complesso di lusso, alla società incaricata della gestione, la Trieste 2040, ex PPN, in grave crisi debitoria. Se il giudice confermerà lo sfratto, il fondo affiderà la gestione del resort a qualcun altro. Una sentenza molto attesa dai circa 90 lavoratori di Porto Piccolo che attendono garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali da parte di un eventuale nuovo gestore. A Pordenone ieri riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica sull'andamento della sicurezza nella città di Pordenone. Dai dati forniti dalle forze di polizia emerge un alto livello di sicurezza in città, con un calo dell'indice di delittuosità lo scorso anno del 10%. Il Comitato ha comunque stabilito di innalzare ulteriormente le barriere protettive a presidio della legalità, con controlli intensificati di forze dell'ordine e polizia locale, anche con unità cinofile, per intercettare situazioni che possono degenerare in fenomeni concreti. L'integrazione tra le diverse forze di polizia sarà definita da un tavolo tecnico in questura. Particolare attenzione sarà dedicata alle aree sensibili di accesso alla città e di maggiore aggregazione, con controlli dinamici sul modello del progetto di contrasto allo spaccio Scuole Sicure. Il Friuli Venezia Giulia è la regione con più start-up giovanili in rapporto alla popolazione, mentre nelle aziende a gestione familiare lo scoglio maggiore resta proprio il passaggio generazionale. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono quelle che crescono più rapidamente. I giovani che vogliono fare impresa oggi devono gestire una velocità di cambiamento che non ha precedenti, e così il passaggio generazionale anche in azienda si fa difficile. È stato questo uno dei temi emersi dal convegno dei giovani di Confcommercio Trieste all'Urban Center. In molti lavorano nell'azienda di famiglia, ma statistiche alla mano, nel 30% dei casi l'attività è destinata a chiudere perché non si riesce a stare al passo con i tempi. Ecco un consiglio da chi invece ce l'ha fatta. Giara Amato, presidente dei giovani imprenditori di Confcommercio Trieste. La cosa importante e fondamentale è sapersi adattare alle richieste del mercato. Cosa significa? Significa che se io parto con un'idea di entrare in un determinato settore e vedo, portandole avanti, che in realtà le richieste vanno in un'altra direzione, io devo saper reagire e quindi affrontare anche le nuove sfide. Le idee imprenditoriali vincenti sono quelle che incorporano tecnologie e conoscenze da ambiti diversi del sapere, ma anche così i momenti di sconforto non mancano. Sebbene la mia attività si occupi di commercio al dettaglio alimentare e ristorazione, durante il Covid i momenti sono stati molto duri per me e per tutto il mio team, nel senso che noi in totale siamo in 15 e ci sono stati dei momenti difficili dal punto di vista economico, ma soprattutto psicologico. Là è stato fondamentale sapersi adattare e reinventare quotidianamente. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Il governo ipotizza il divieto di fumo anche all'aperto e anche per le sigarette elettroniche. Pareri diversi tra esercenti e consumatori, univoco quello della BAT, la multinazionale del tabacco che ha appena aperto la produzione a Trieste. 40 anni di lavoro dietro al bancone, quanto fumo passivo per Massimiliano Fontanot, barista di Trieste, che ricorda la sua vita prima della legge Sirchia, che 20 anni fa vietò le sigarette nei luoghi chiusi. Io ho fumato non volontariamente tutta la vita, e venivano i clienti dentro, ma come fai a stare qua dentro? Si dice dunque pronto a creare uno spazio apposito per i clienti fumatori all'esterno del suo bar, se davvero uscirà una nuova legge, ora allo studio del governo, che eviterà di fumare nei luoghi pubblici all'aperto, bar, ristoranti, ma anche parchi e fermate del bus. Tra i fumatori diverse le reazioni. All'esterno non vedo il problema che posi ancora negli altri. Mi fumo e non darò più in bar, andrò ad un'altra parte, andrò in Jugo. Io sono un accanito fumatore e bisogna subire questo super negativo vizio in privato, presumo. La novità della futura legge è che equipara la sigaretta elettronica a quella tradizionale. Ma non sono d'accordo alla BAT, British American Tobacco, la società che ha scelto Trieste per creare il primo hub al mondo di prodotti alla nicotina di nuova generazione, 500 milioni di euro investiti, e spera che il governo riveda la posizione. Andrea Di Paolo, vicepresidente British American Tobacco. Ovviamente che se si vuole il rischio zero e il danno zero, bisogna o non iniziare a fumare o smettere di fumare, ma per chi non riesce o non vuole, questi prodotti sono un'alternativa a potenziale rischio ridotto, quindi non vedo il perché non dare agli attuali consumatori una possibilità di riduzione del danno. Il numero di fumatori in Italia è in aumento, 800.000 in più rispetto al 2019, è triplicato il consumo di sigarette elettroniche che, gli esperti dicono, creano dipendenza. Duilia Zanon, coordinatrice trattamento al tabagismo Udine. Ne dà molto di più la sigaretta elettronica in quanto contiene nicotina sotto forma di sali che fanno sì che la nicotina venga assorbita in quantità molto maggiore nel breve tempo e quindi la potenzialità di creare dipendenza è maggiore ancora della sigaretta. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. I misteri delle parole, come agiscono, come colpiscono, come arricchiscono le parole di tutti i giorni e quelle usate in oncologia. A Udine dalle 16.30 nella sala conferenze della prefettura in via Pracchiuso. Partecipano specialisti nella cura dei tumori e rappresentanti di fondazioni e associazioni attive nel settore. Ospite speciale il linguista Giuseppe Antonelli dell'Università di Pavia. E parte un progetto di indagine sociolinguistica realizzato da IRES dell'ARLEF per comprendere l'utilizzo del friulano e delle altre lingue parlate in regione. Verrà diffuso e raccolto sul territorio regionale il questionario di indagine elaborato dai ricercatori IRES in stretta collaborazione con il finlandese FEF, Centro di Ricerca Europeo sul Multilinguismo, e un comitato scientifico composto da linguisti delle università di Bolzano, Milano, Pavia, Trento e Vigo in Galizia. L'iniziativa è parte degli interventi previsti dal Piano Generale di Politica Linguistica per la lingua friulana della regione Friuli Venezia Giulia. E in programma per oggi un incontro tra Confagricoltura e l'amministrazione regionale per discutere delle conseguenze del cambiamento climatico e della transizione ecologica sull'agricoltura regionale. L'appuntamento avrà luogo al Salone del Parlamento, al Castello di Udine, a partire dalle 14.30. Al presidente di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia, Philippe Thurn Valsassina, abbiamo chiesto cosa sta cambiando nel settore a causa del cambiamento climatico. Stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, noi sentiamo questo cambiamento climatico proprio per primi lavorando a contatto con la natura. Quello che ci spaventa è la percezione che all'agricoltura venga anche richiesto dei cambiamenti che però sembrano portare verso una ridotta competitività e sul futuro non vediamo ricerca, non vediamo sviluppo. Questo crea sicuramente difficoltà a un settore che adesso deve combattere con questo cambiamento climatico. Come si può fare quindi per affrontarlo? Dobbiamo sfruttare le conoscenze che abbiamo, dobbiamo investire, fare dei investimenti anche un po' a lungo termine. Quello che chiediamo sono investimenti nel settore irriguo, ma ci rendiamo conto che non sono investimenti che si possono fare dall'oggi al domani e anche le risposte che noi chiediamo nella ricerca non sono risposte immediate. Dobbiamo partire con l'idea che dobbiamo cambiare orizzonte temporale per raggiungere dei risultati che sono ambiziosi. Ma questa consapevolezza è diffusa nel settore? Nel settore credo proprio di sì. Mi sembra che nella politica, soprattutto quella di Bruxelles, non lo sia affatto. Già adesso noi avevamo un problema dal punto di vista regionale, demografico, gli agricoltori sono sempre di meno, c'è un problema di ricambio generazionale, c'è un problema di investimenti e questo stato di incertezza sicuramente non porterà a migliorare questa situazione. Pochi giorni fa in Trentino un escursionista aggredito da un orso, visto l'inverno mite, molti orsi si sono già risvegliati dal letargo. Sentiamo come ci si deve comportare nel caso di un incontro fortuito anche con altri animali selvatici del territorio. Un incidente come quello accaduto in Trentino, dove un escursionista è stato ferito da un orso, in Friuli Venezia Giulia sarebbe più difficile che capiti. In regione gli orsi presenti sono 5 maschi, quasi tutti provenienti dalla Slovenia e non stanziali, fatta eccezione per Francesco, l'orso naturalizzato carnico. Ma nei nostri boschi sono tanti gli animali selvatici con cui gli escursionisti o gli abitanti delle zone montane potrebbero avere contatti. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti o gli incontri con cervi o lupi in prossimità dei centri abitati. Risale a poco più di un anno fa una coppia a Tarvisio aggredita da un cervo di grosse dimensioni. I consigli sono sempre gli stessi: non dare da mangiare in prossimità delle case agli animali selvatici e in caso di avvistamento non spaventarli. Stefano Filacorda, docente ricercatore dell'Università di Udine. Diciamo che non ci sono delle emergenze. Ricordiamo sempre che l'animale, diciamo che sicuramente può avere comportamenti più pericolosi nei confronti dell'uomo, è l'orso di fatto. Il lupo può diventare un problema nel momento in cui si lasciano appunto vicino alle case fonti alimentari che potrebbero attrarlo. Ricordiamo che il lupo è un animale che si adatta molto anche a altre fonti alimentari che non sono il cervo, il capriolo, la pecora, e quindi diciamo tenere sempre distante questi animali dalle nostre case, cercando di non attrarli. Un altro aspetto importante è gestire in maniera opportuna le specie selvatiche, in modo da avere un numero sufficientemente numeroso che possa sostenere i fabbisogni, come si dice, dei lupi stessi. Questo riduce il rischio che questi vadano ad attaccare gli animali domestici. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo agli spettacoli. Oltre 30 anni di scrittura di Michele Serra, giornalista e scrittore satirico, approdano in teatro nel monologo L'amaca di domani alle 20.45 al Teatro Palamostre di Udine, all'interno della stagione di prosa realizzata dalla Fondazione Luigi Bon in collaborazione con il circuito ERT. La RBR Dance Company, ospite del circuito ERT con Canova Svelato, gli illusionisti della danza, che dà vita alle sculture di uno dei massimi esponenti del neoclassicismo, questa sera alle 20.45 al Teatro Modena di Palmanova, domani all'Odeon di La Tisana e giovedì al Comunale di Monfalcone. Alle 20 al Teatro Comunale di Monfalcone si terrà il concerto della fanfara della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, dedicato all'ottantesimo anniversario della ritirata dalla campagna di Russia e al sacrificio dei soldati isontini, giuliani, istriani e dalmati. Saranno presenti autorità civili e militari. Alla vigilia della capitale europea della cultura, Go 2025, il mondo del cinema del Friuli Venezia Giulia rende omaggio a Franco Giraldi, regista, attore, scrittore, sceneggiatore, nato nel 1931 da madre slovena di Trieste e padre italiano dell'Istria e scomparso nel 2020. Il primo appuntamento oggi al Visionario a Udine alle 19.30 con La Rosa Rossa, proiettata nella copia digitalizzata dalla Cineteca del Friuli. Ambientato negli anni successivi al primo conflitto, narra del conte Paolo Balzeri, ex generale dell'esercito austro-ungarico, che va in visita a Capodistria dal cugino e dalla moglie. Il Far East Film Festival a Udine dal 21 al 29 aprile sta per tagliare il suo 25esimo traguardo. Lo celebra Happy Birthday Far East Film da oggi al 4 aprile. Si comincia alle 20 con il thriller Audition di Takashi Miike. E ora lo sport. Calcio, ufficiale da ieri l'esonero dalla panchina del Pordenone di Mimmo Di Carlo, al suo posto Mirko Stefani, che ieri ha diretto nel pomeriggio il primo allenamento con la nuova squadra. Oggi la presentazione del tecnico e del suo vice Andrea Toffolo. Nuovo stadio e subito nuovo allenatore. Il Pordenone dà un calcio al passato recente, ritorna nella sua provincia, a Fontana Fredda, per riacciuffare la Serie B e dopo una prima non indimenticabile al Tognon esonera Mimmo Di Carlo. 6 punti nelle ultime 5 giornate fino al pareggio con la Pergolettese. Quota 51 in classifica, terzo posto a meno 3 da Feralpi e Prosesto. Più dei risultati però è stato il gioco espresso a far decidere al presidente Lovisa. 0 idee, il fulmine post partita del numero 1 neroverde. Tocca a Mirko Stefani, ex capitano e bandiera del club neroverde. 39 anni, ha iniziato la stagione e la carriera da allenatore alla guida dell'Under 17. Ritrova vecchi compagni come Deli, Zamarini, Pinato, Bassoli e Burrai. Un nuovo inizio, come l'esordio a 18 anni con la maglia del Milan in Serie A. Il legame con il Pordenone dal 2015 fino allo scorso anno, dalla Serie C alla B. 166 presenze e 5 gol con la maglia neroverde. E quella fascia da capitano indossata il 1 dicembre 2015. 2017, Inter Pordenone a San Siro, ottavi di Coppa Italia. Neroverdi sconfitti soltanto dopo i calci di rigore. Ora Lovisa chiede la Serie B al suo vecchio capitano. La storia tra Stefani e il Pordenone continua, ripartendo da Lecco domenica prossima. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket in Serie A1, dopo il successo molto importante in chiave salvezza su Treviso, parla il nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Trieste, Connor Barwin. Nel servizio sentiamo quali sono gli obiettivi della nuova proprietà. Cotogna Sports Group Italia è sbarcata a Trieste, ha acquisito il 90% delle quote della società biancorossa e da ieri vede il primo obiettivo, la salvezza in A1, più vicina grazie alla netta vittoria su Treviso. Squadra di Legovic a quota 18 con Venezia nono posto, due vittorie in più del gruppo delle penultime e vantaggio negli scontri diretti proprio su Treviso. Nel nuovo consiglio di amministrazione con Richard De Meo presidente c'è Connor Barwin, 36 anni, un passato sportivo importante come linebacker, 10 anni nella NFL e poi da 4 direttore dello sviluppo giocatori dei Philadelphia Eagles, fresco di finale al Super Bowl. Per la CSGA, spiega Barwin, Trieste è perfetta per poter sviluppare un progetto di basket che coinvolga la città. Come giocatore so che per rimanere al top c'è bisogno di grande coinvolgimento, costanza nell'allenamento ma anche innovazione e ricerca continua del vertice, e questo riguarda anche l'organizzazione societaria generale, una filosofia che spero di poter portare a Trieste. Ho imparato che devi sempre avere fame e devi trasmetterlo a tutta l'organizzazione. È quello che speriamo di costruire qui. E ci sono gli obiettivi, quelli a breve termine. Voglio riuscire a garantire ai giocatori e allo staff la possibilità di continuare ad alti livelli e migliorare per il resto della stagione. Voglio vedere lotta e competizione spinta in ogni partita. Non so se raggiungeremo i playoff, ma quello che posso assicurare è che a maggio la squadra starà meglio di adesso. A Trieste è iniziato un nuovo capitolo nella storia del basket. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E siamo alla rassegna stampa, in apertura a metà pagina del Piccolo, nell'edizione di Trieste, l'omicidio-suicidio dei due anziani coniugi, abbracciati nella morte, il titolo. La fotonotizia è dedicata invece al Porto Vecchio, per cui il Comune cerca un investitore unico, si punta a trovarlo entro il 2023. Al centro l'addio al fisarmonicista Fabio Zoratti, musicista di strada di Piazza Cavana, che si è spento a 73 anni. E ancora Mitja Gyalus, avvocato e presidente della Barcolana, sarà tra i legali delle vittime della strage di Crotone. Nelle pagine interne, capocronaca, il convegno sulle start-up giovanili, che racconta come l'economia cambia anche attraverso i passaggi generazionali, mentre riapre l'ostello di Miramare dopo lo stop per il caro bollette. Servono volontari per la dunata degli alpini a Udine, l'apertura del Messaggero Veneto. Nella fotonotizia da Fagagna a Cherchon per portare viveri e attrezzature. Di spalla cronaca cominciano i lavori alla ex Dormish, limitazioni al traffico scattate ieri in via Bassi, poi il degrado della palazzina di via Caccia, già sede dell'università, e le villane, le carte da gioco friulane abbandonate a metà Ottocento. Differenziata a Cervignano, i cassonetti dell'umido resteranno aperti. In taglio alto il piano antigioco d'azzardo di Confcommercio e Università di Udine e 20 etichette friulane nella classifica dei vini bianchi. Sul gazzettino inserto del Friuli, nuovo giro di rincari, tocca alle RSA per gli anziani. Fotonotizia, automobilisti indisciplinati, 84 divieti di sosta al giorno, infarto in caserma, soldato salvato dai colleghi alla Bergins e disparato. Il futuro dei bar dopo le slot machine, l'automotive, primavera di tagli e sacrifici. Nell'edizione di Gorizia del Piccolo, apertura per l'insediamento del gruppo dei Wave nell'area dell'ex Mercatone a Monfalcone. L'azienda, specializzata negli arredi navali di lusso, investirà 2 milioni. In fotonotizia, il revival anni 60 delle spiagge di Grado. Tra le notizie interne, la nuova mappa di gusti di frontiera. A causa dei lavori ai giardini, sarà rivista la disposizione dei borghi. mentre all'unità pastorale di Gradisca e Faradisonzo arriverà dall'India un nuovo sacerdote per aiutare il parroco. È il settimo religioso dell'arcidiocesi isontina che proviene dall'estero. Eraldo e Michele, abbraccio tra famiglie, l'apertura del Gazzettino per l'incidente dell'altra notte in Veneto. Il ragazzo di Pordenone, che sarà indagato per omicidio stradale, lotta per la vita, l'altro conducente rischia anche l'omissione di soccorso. Sotto l'idea del prefetto, zone vietate in città, Pordenone per i delinquenti, nella fotonotizia la cannonata sulle galline diventa meta turistica su Google Maps come luogo storico della battaglia del Cellina. In taglio basso l'ex Amman, Giacco Tonificio nelle maglie del super bonus e il calcio nero-verdi. Tocca al duo Stefani Toffolo. Banca clandestina e soldi in nero spediti dalla Cina, l'apertura del Messaggero Veneto di Pordenone sulla maxi inchiesta della finanza sull'organizzazione con diversi uffici in Italia, connessioni anche con il caso Gaiato e la vendita di Alpi Aviation fermata da Draghi. Fotonotizia, il sorpasso e lo schianto in Veneto, di spalla i controlli rafforzati e i cani antidroga in città, impianti sportivi da rinnovare, congelati i lavori della piscina comunale di Valle Noncello e la Design Week con 200 studenti. Due appuntamenti religiosi. Alle 10.30 l'arcivescovo di Gorizia, Monsignor Carlo Roberto Maria Reidaelli, incontrerà in arcivescovado i sindaci dell'Alto Isontino della provincia di Udine. Gli incontri, promossi dall'Ufficio Diocesano della Pastorale del Lavoro e Sociale, si inseriscono nella fase di ascolto delle diverse voci del territorio che sta segnando questo secondo anno del cammino sinodale della Chiesa italiana. Alle 21 ingresso libero nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Via Cologna, Trieste, l'evento Un Cuore Acceso con la presenza di Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena nel Casentino. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. Alle 11.10 la rubrica in friulano Vueo Fevelin di con l'associazione I Nostri Diritti Onlus, che ha come obiettivo quello di assistere chi subisce un reato nel difficile rapporto con le istituzioni. A seguire alle 11.20 radar, sostenibilità e ricerca, l'importanza del verde urbano, le possibilità energetiche dell'idrogeno. I programmi regionali torneranno poi alle 13.29. In regia Andrea Fonta, Notte Viola Romanese, in redazione ha collaborato Daniela Sossi. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.